9 in punto. 9 in punto, torna puntuale come tutti i giorni, non c'è Oscar Giardino, gli auguriamo le più ottime vacanze, 15 giorni di vacanze meritate dopo il tour de force che ha fatto per questi mesi. Ci sono io, Gianfranco Fabi, buongiorno, buongiorno a tutti, dovete accontentarvi di me. Parleremo di tante cose, parleremo di cose forse un po' diverse rispetto a quelle di cui parlava Giannino, cercheremo anche di entrare un po' nel clima estivo, ma parleremo a mia, che non ci abbandonano con tutti i loro problemi. Oggi parliamo di Londra, parliamo di Olimpiadi, ma non delle Olimpiadi che si combattono, che si corrono, che si disputano sui campi di gara, ma della città, com'è cambiata Londra, una meta abituale non solo di turismo, anche di business, anche di affari, anche di finanza, questa capitale inglese che è molto legata alle tradizioni ma è molto moderna. Parleremo di Londra tra poco dopo il GR. Restate con noi. 9 in punto. Buongiorno, bentrovati i nostri ascoltatori, buona estate a tutti, buona estate a Oscar Giannino che per 15 giorni lascia questi microfoni, mi lascia questi microfoni, sono Gianfranco Fabi e vi saluto, vi terrò compagnia a 9 in punto cercando di parlare degli argomenti di attualità, forse non con la verve, con le punture di spillo di Oscar, ma cercando di comunque guardare all'interno di quello che succede, parlando di cose che possano interessare e interessarvi. Parleremo di attualità, parleremo di politica, parleremo di economia, parleremo di finanza, parleremo di quello che ci ispirerà giorno per giorno, ovviamente lasciando aperte le vostre opinioni. Il numero verde è il solito 800 24 0024 con il 349 238 6666 per i vostri messaggi SMS. Oggi parliamo di Olimpiadi, se ne parla tanto, siamo al giro di boa delle Olimpiadi, ma non parleremo di sport, non parleremo di medaglie, non parleremo di prestazioni, anche se hanno emozionato tutti le avventure positive e negative degli italiani, ma anche degli altri esponenti della cultura sportiva, perché poi in fondo di cultura sportiva si tratta. Parleremo di Londra, parleremo di Gran Bretagna, parleremo di Olimpiadi che, come tutti i grandi eventi, hanno delle ricadute politiche ed economiche, hanno delle ricadute anche sociali sul territorio. Non abbiamo un grande ricordo positivo delle ricadute, per esempio, delle Olimpiadi di Atene nel 2004, forse da lì è iniziata anche la crisi della Grecia, le grandi spese fatte per quelle Olimpiadi hanno portato il paese ellenico poi a quelle vicende che abbiamo vissuto e continuiamo a vivere in questi giorni con la crisi che ha coinvolto tutta l'Europa. Forse si ricordano solo le Olimpiadi di Sydney come le Olimpiadi che hanno avuto un esito positivo dal punto di vista finanziario, le altre sono state più dei costi che dei ricavi, anche se è sempre difficile poi trarre dei bilanci tenendo conto anche delle ricadute di immagine che non sono quantificabili, e di questo si è parlato molto anche in Italia quando si è fatta l'ipotesi di chiedere la candidatura di nuovo di Roma dopo il 1960 per ospitare le Olimpiadi nel futuro, poi richiesta che è stata accantonata dal governo proprio per il fatto che avrebbe richiesto degli investimenti, delle spese sicure con delle ricadute incerte. Ma non poi lasciamo adesso parlare i nostri ospiti, che saluto, Roberto Bertinetti. Buongiorno Bertinetti. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Docente di letteratura inglese, collaboratore domenicale del Sole 24 Ore, recente curatore di una antologia degli scritti, dei diari di Virginia Woolf, consigli a un aspirante scrittore. Poi abbiamo Leonardo Maisano. Buongiorno Maisano. Buongiorno a voi. Corrispondente del Sole 24 Ore da Londra, che ogni giorno ci racconta non tanto le Olimpiadi, perché il Sole 24 Ore lo spazio per lo sport non è mai tanto, ma soprattutto l'economia, la realtà, la società inglese, e Mattia Bernardo Bagnoli. Buongiorno Bagnoli. Buongiorno, buongiorno. Autore del libro Strano, ma Londra, come trasferirsi e vivere all'estero. Io inizierei da Leonardo Maisano, che ha l'esperienza più diretta, basta che apra la finestra e vede Londra. Allora, com'è Londra in questo periodo, come le Olimpiadi stanno cambiando Londra, e se è possibile, tu l'hai scritto nei giorni scorsi sul Sole 24 Ore, trarre un primo bilancio della ricaduta di queste Olimpiadi sulla città di Londra, sull'economia inglese. Maisano. Londra, la cosa più evidente delle Olimpiadi a questo punto è che Londra ha aggiunto un pezzo importante a se stessa, cioè la grande operazione economica che sta dietro le Olimpiadi è il rilancio, il recupero di una enorme area dismessa nell'East End della città, che dovrà essere, come dire, come si suol dire in queste condizioni, il volano per il recupero di tutta quella parte della capitale nel fianco orientale che non è mai stata sviluppata come quella nel fianco occidentale. Quindi le Olimpiadi come punto di partenza per il rilancio dell'East End estremo, diciamo, di quella parte dell'East End che non era già stato risanato da Margaret Thatcher con la famosa operazione sui Docklands e l'estensione della City. Questa è la vera scommessa sul lungo periodo di Londra. Scommessa che è impossibile dire in questo momento se sarà vinta, perché a tutt'oggi hanno sprofondato una quantità di denaro notevole in mezzo a un'area che resta profondamente depressa. Quindi bisognerà vedere se questo tipo di esercizio, come dire, economico, urbanistico, darà i suoi frutti. Ecco, da un profilo invece più immediato, la vita a Londra in questo periodo, in questi giorni, si è detto che le Olimpiadi hanno tenuto più lontano i turisti che non farli arrivare. No, più che altro hanno tenuto lontano i londinesi, nel senso che molta gente ha colto l'occasione per andarsene. La città dà la sensazione, è evidentemente svuotata rispetto a quello che è in questo periodo di un anno, diciamo così, normale. Svuotata di londinesi, c'è un forte afflusso ovviamente di turisti o di gente che viene da fuori Londra, cioè anche inglesi ma non londinesi. Questo perché si temeva che la città non fosse in grado, come dire, di reggere all'urto di un evento del genere. In realtà sta reggendo piuttosto bene, nonostante sui trasporti ci sia sempre qualche complicazione, perché questa parte dei giochi è francamente distante, diciamo, da dove si muove la città quotidianamente. Quindi quello dei trasporti è forse l'unico punto ancora interrogativo su giochi che stanno andando molto bene. Dal punto di vista commerciale non particolarmente bene, anzi piuttosto male, cioè i negozianti si lamentano perché non hanno il ritorno di turisti pronti a spendere, perché la condizione di crisi generale e l'abbattimento dei consumi che anche questo paese vive non porta a spendere ulteriormente, e in compenso devono soffrire la mancanza del residente quotidiano, insomma della spesa routinaria e d'abitudine, per cui nella maggior parte degli esercizi commerciali si nota un calo degli affari. In questo momento non è quantificabile con precisione, ma c'è. Ecco, in questa prima fase un'ultima domanda, poi torneremo con te Maisano, però proprio ha introdotto già un tema. Molto spesso si guarda la Gran Bretagna è fuori dall'euro, ha la sterlina, sembra in questo periodo in cui si discute molto, perché per evidenti ragioni, delle sorti della moneta unica europea, allora si dice ma un paese che è di fuori dall'euro potrebbe avere meno problemi. Invece la Gran Bretagna in questo momento, anche prescindendo dalle Olimpiadi, i problemi economici le ha problemi economici forse allo stesso livello degli altri paesi europei, Maisano? Assolutamente sì, nel senso che l'Inghilterra comunque ha dei legami commerciali radicatissimi con l'Europa, il 50% dell'interscambio e più è con i paesi dell'Unione Europea, e quindi dipende dalla salute dell'euro quasi come un paese dell'Eurozona. È chiaro che poi su altri fronti la sterlina è diventata una specie di valuta rifugio, il gilt, cioè i buoni del tesoro inglesi danno dei tassi che rasentano lo zero, perché si crea questa situazione, come dire, di paradiso relativo o comunque di paese rifugio in un momento di gravi difficoltà. Ma le difficoltà inglesi sono spesso sottostimate, cioè questo è un paese che è uscito dalla crisi del credito con più del 10% di deficit rispetto al PIL, che adesso ha corretto a circa l'8% dopo una stretta sulla spesa che non ha precedenti, perché una stretta violentissima, che stenta a crescere perché quest'anno chiuderà al più 0,1% se ci sarà un effetto olimpico, perché i primi due trimestri sono nel segno di un'assoluta secca recessione. Quindi è un paese che ha un problema anche di, incomincia ad avere per la prima volta dopo tanto tempo, un problema di occupazione, che tradizionalmente non aveva, anche perché ha norme sul lavoro particolarmente flessibili. Quindi è un quadro globale di un paese in crisi esattamente come gli altri, o in modo molto simile agli altri, con quell'eccezione non da poco, devo dire, della sterlina e della solidità della... Sì, della propria finanza. In fondo la City è la City per definizione, la capitale della finanza. Forse parleremo tra poco, tra qualche minuto anche di questo aspetto, però vorrei sentire anche Roberto Bertinetti, visto dall'Italia, da un grande esperto, un grande conoscitore di Londra, come è cambiata Londra in questi ultimi anni di fronte alle Olimpiadi, come sta cambiando, è ancora una città che merita di essere visitata, lo dico un po' provocatoriamente sapendo già la risposta. Roberto Bertinetti. Prevedibile, assolutamente sì. C'è un aspetto, io sono completamente d'accordo con le considerazioni fatte da Maesano adesso, cioè la grande scommessa, quella della riqualificazione dell'East End, che era una delle aree non solo più povere di Londra, di quella parte dell'East End, ma addirittura dell'intero Regno Unito. Non dimentichiamoci che una parte larga parte dell'abitazione del villaggio olimpico verranno riconsegnate agli abitanti della zona, quindi c'è molto favore anche da parte degli abitanti a questa operazione che è stata fatta. Prima di dare, diciamo così, consigli culturali su quello che si può fare a Londra, perché vale la pena di andare a Londra, c'è un tema che mi preme sottolineare, è stato fatto dai quotidiani britannici e anche da quel quotidiano italiano in questi giorni, cioè le vittorie britanniche che hanno acceso titoli nazionalistici, oggi il Daily Telegraph, quotidiano conservatore, titola The Land of Hope and Glory, insomma siamo tornati ai vecchi inni di un tempo, devono moltissimo al carattere multietnico, non solo di Londra, ma della società britannica, che è un carattere multietnico che tra mille difficoltà però è stato costruito negli ultimi 40-50 anni, cioè le prime ondate di immigrazione caraibica arrivano nel 1947-48, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. Londra, da questo punto di vista, è una città giovane, il 30% degli abitanti non ha la pelle bianca, si parlano 300 lingue. Se andiamo a vedere le foto degli atleti che hanno vinto medaglie d'oro o le altre medaglie negli ultimi giorni, ci sono persone che provengono dall'Africa piuttosto che dall'Asia o da altre. Ecco. È banale dire che lo sport fa da specchio alla società, però sicuramente dà un'indicazione. Beh, comunque Londra con i suoi 11 milioni di abitanti è sempre capitale di un impero e forse chiosando un po', portando all'estremo, anche il vincitore del tennis Murray, in fondo non è un inglese, ma è uno scozzese. Ma Murray aveva l'ultima occasione della sua vita. Allora, ci sono due cose che bisogna raccontare. Innanzitutto, per chi si fosse distratto, Andy Murray, che è appunto scozzese, ha perso l'ultimo Wimbledon con Roger Federer appunto in finale. Forse gli ha giovato a Wimbledon, normalmente, che è il torneo di tennis più importante del mondo, si gioca con le magliette bianche, si gioca in divisa bianca. Ieri naturalmente ognuno aveva una maglia diversa, Murray aveva una maglia blu, Federer ce l'aveva rossa. Forse il cambio di maglia, del colore della maglia, è risultato decisivo. Ma al di là di questo, gli inglesi pagano, diciamo così, alle federazioni sportive, pagano una specie di tassa, contributo, perché un inglese vinca finalmente Wimbledon. Questo succede da, credo, 50-60 anni. È stata una donna l'ultima britannica a vincere Wimbledon. Dopodiché, però, molto pragmaticamente gli inglesi dicono che non importa, cioè sì, importa, ma non è la cosa fondamentale che un inglese vinca il torneo di Wimbledon, ma la cosa fondamentale è che Wimbledon sia il torneo di tennis più importante del mondo. Ecco, su questa mentalità pragmatica bisogna dire che gli inglesi hanno costruito i giochi, cioè Londra, Atene ha cominciato, come si diceva prima, il suo dissesto finanziario con le Olimpiadi del 2004, sì. 2004. Londra lo ha fatto in una maniera molto più avveduta. Tra l'altro bisogna ricordare anche un altro particolare, che il 6 luglio del 2005, quando una folla si radunava a Trafalgar Square per festeggiare la vittoria dell'assegnazione delle Olimpiadi a Londra, i competitors non erano da poco, perché c'erano Parigi che era favorita, c'era Madrid, c'era Mosca, c'era New York. E il 6 luglio del 2005 è il pomeriggio che precede la drammatica mattina successiva in cui ci sono gli attentati nella metropolitana di Londra, e la stessa folla multietnica, multireligiosa si trova qualche giorno dopo nella stessa piazza per commemorare le oltre 50 vittime e feriti. Ecco, io naturalmente, come si diceva prima, ho una predilezione particolare per Londra e per l'Inghilterra, però questo carattere di società che si dà delle regole, che sono regole di convivenza civili importanti, e che comunque, seppure tra mille problemi, tra mille difficoltà, è diventata una società completamente multietnica, forse la più multietnica e, brutto dirlo, tollerante, ma d'Europa, vuol dire che questo paese e la sua capitale sono riusciti a passare da capitale di un impero, quale erano sostanzialmente fino alla fine del periodo vittoriano, ma anche nella prima parte del secolo scorso, a capitale culturale di qualcosa, che è un percorso che è cominciato negli anni 50, quando hanno inventato sostanzialmente la musica, Beatles, Rolling Stones e altro, minigonna, modo di vestire, e hanno costituito da allora un punto molto elevato di modernità. Poi ne parleremo, c'è anche tutta la questione dell'architettura di Londra, dei volti, certo. Hanno avuto Renzo Piano, per esempio, ha avuto un ruolo importante nel disegnare Londra. Anche tra le ultime iniziative, magari ne parleremo dopo. Io vorrei andare verso la conclusione di questa prima parte, poi nella seconda parte, nella seconda mezz'ora, anche con le eventuali telefonate degli ascoltatori, l'800 24 00 24 e con gli sms che peraltro cominciano ad arrivare, e vi ringrazio, ci sono molti complimenti per Giannino, ovviamente sono anch'io partecipi di questi complimenti, messaggi sms al 349-238-6666, però vorrei sentire in conclusione di questo primo giro Mattia Bernardo Bagnoli, che è giornalista e autore di un libro, Strano ma Londra, come trasferirsi e vivere all'estero, guardando a Londra non come città da visitare, da cui, in cui andare a, appunto per qualche giorno a fare i turisti o magari per qualche mese a studiare, ma come città in cui andare a vivere. Mattia Bernardo Bagnoli, merita ancora pensare di andare a vivere a Londra? Beh, come potrei dire di no? Io l'ho fatto, ci vivo felicemente ormai da 7 anni e come me molte altre persone. Londra è una città che cresce, ogni anno a Londra arrivano persone. Una media che ha tenuto anche con la crisi, quindi si oscilla da 20 a 80 mila persone in più ogni anno, e non sono poche chiaramente, persone che vengono a Londra e cercano molto spesso fortuna, un po' come nei film americani degli anni 80, no? La buona novella del ragazzo giovane che viene da ogni parte dell'Inghilterra a Londra per poi trovare lavoro e cercare e sperare di farcela. Ecco, questo è un processo che nel corso degli anni, diciamo, 90 e 2000, sicuramente 2000, è stato poi replicato dai giovani di Europa. Quindi grazie al passaporto europeo non c'è bisogno di nessun visto, ovviamente Londra è Londra, si parla l'inglese, quindi è un magnete per diverse esperienze, come dicevi tu, sia dall'esperienza, diciamo, dei 2 o 3 mesi dopo la maturità o la laurea, che sia per praticare un po' di inglese, sia per chi invece ha qualche mira in più. E poi chi lo sa, è pieno di storie di persone che sono appunto venute per quei famosi 2 o 3 mesi che poi non se ne sono più andate. Ecco, questo lo spieghi molto bene nel libro Strano ma Londra, come trasferirsi e vivere all'estero, edito da Fazzi Editore. Diciamo, il maggiore pregiudizio che c'è di chi va a Londra e si trova di fronte a una realtà che non si aspetta, qual è la maggiore sorpresa che ha un giovane ventenne che va a Londra con pieno di speranze? Direi che al momento ovviamente il grande tema della crisi è un tema che impatta, come diceva il collega Maisano, ovviamente anche Londra, e quindi al momento mi sento di dire che la sorpresa forse è che tutto il mondo è paese, quindi anche la grande Londra ha dei problemi e quindi il lavoro forse è meno immediato di come lo era periodo pre-crisi 5-6 anni fa. Quindi pensare di arrivare e immediatamente risolvere la propria vita o soddisfare le proprie aspirazioni al momento forse non è più così. Ma noi italiani da questo punto di vista abbiamo sempre forzato la mano, nel senso che ho conosciuto, sono stato testimone di varie storie di persone che sono venute magari avendo a disposizione pochissimo tempo per sistemarsi o comunque per iniziare a camminare con le proprie gambe e anche pochissimi soldini, diciamo, in saccoccia come cuscino per un'eventuale caduta rovinosa, sto parlando magari di un paio di mesi, e sono dovuti tornare a casa un po' con la coda tra le gambe. Mi spiego molto molto chiaramente: se l'esperienza che si vuole fare, cioè venire a Londra, praticare un po' di inglese, trovare lavoro per sostenersi e voler fare tutto questo nell'arco di un mese e mezzo, ecco, è un arco di tempo un po' troppo ristretto. Cioè, Londra è pur sempre un grande magnete, ma non è ancora, e non lo è mai stato, soprattutto il paese delle meraviglie. Ecco, quindi bisogna affrontare con realismo anche un'eventuale ipotesi di andare a vivere a Londra, e comunque resta un'ipotesi in un certo senso affascinante. Ci fermiamo un attimo per la pubblicità, ma restate con noi. 9 in punto. Eccoci tornati a 9 in punto, stiamo parlando di Londra, una città, una city oltre le Olimpiadi, una grande città. Ne parliamo con Roberto Bertinetti, docente di letteratura inglese, collaboratore domenicale del Sole, con Leonardo Maisano, corrispondente da Londra del Sole 24 Ore, con Mattia Bernardo Bagnoli, autore del libro Strano ma Londra, come trasferirsi e vivere all'estero. Io vorrei chiedere a Maisano, che tra poco deve lasciarci e quindi lo ringrazio già per la sua presenza. Ecco, Maisano, tu sei stato a Londra forse 30 anni fa per la prima volta o qualcosa di più? Sì, circa. Ecco, cos'è cambiato? Com'è cambiata Londra dal primo impatto che hai avuto ad oggi? Ma in tutta franchezza si è un po' volgarizzata, cioè nel senso che gli ultimi 10 anni, quando Londra vive queste ondate, sono nella sua tradizione, nella sua storia, di immigrazione, come dire, di paesi emergenti. Negli anni 70 si ricorda bene gli arabi con i petrodollari che arrivarono e misero le basi a Londra. Diciamo che negli ultimi 15 anni circa Londra è diventata punto di riferimento, per esempio, degli investimenti russi, dell'ex Unione Sovietica, eccetera. Questo ha portato, come capita spesso nella prima fase di questa, come dire, dell'arrivo di capitali freschi, una forma, come dire, di qualche modo di involgarimento, cioè nel senso che il gusto e l'abitudine tradizionale del lifestyle inglese è stato in qualche modo contaminato da abitudini diverse. Adesso non voglio dare un giudizio eccessivamente severo, però da abitudini diverse e che hanno colpito soprattutto la zona dell'West End, quel quadrato, quel triangolo, diciamo così, d'oro, che è Kensington, Chelsea, Belgravia, le zone più care, dove si sono collocati, sono arrivati questi capitali. Bisogna tenere presente che Londra da questo punto di vista veramente applica il concetto pecunia non olet, cioè il denaro da dove arriva arriva, e qui in questi anni c'è stato un po' di confusione, a dir poco, su questa. Beh, si dice che siano arrivati anche molti ricchi francesi preoccupati. Ultimamente sì, ma quelli sono la, come dire, le vittime, tra virgolette, della politica fiscale promessa da Hollande. L'idea del 75% di tassazione per i super ricchi è un'altra, come dire, un'altra mattone all'immagine di Londra come relativo paradiso fiscale. Lo è stato a lungo, non lo è più come era prima, non lo è più come era negli anni 90, nei primi anni 2000, è cambiato molto perché prima governo, inevitabilmente la crisi ha creato, però rispetto alla Francia e soprattutto rispetto alla svolta promessa da Hollande, Londra continua a mantenere questa immagine. Cameron ci ha anche giocato recentemente, il primo ministro inglese, dicendo che i tappeti rossi sono aperti per gli investitori francesi che volessero attraversare la Manica per trasferirsi nella City. battuta per rimanere in temi olimpici che Olanda ha restituito a Cameron nei primissimi giorni delle Olimpiadi, quando Londra non vinceva niente, quando gli inglesi non vincevano niente, i francesi invece andavano molto bene, dicendo che Parigi è pronta a stendere i tappeti rossi per gli atleti inglesi. Adesso poi tutto è cambiato perché l'Inghilterra sta andando in modo straordinariamente positivo a queste Olimpiadi. Sì, ha fatto un'impresa in un giorno solo, vincendo 4 o 5 medaglie. Ecco, Maisano, un'ultima domanda di tipo magari politico. Sindaco di Londra, Boris Johnson, è un protagonista. Serviranno queste Olimpiadi a lanciarlo anche a livello nazionale? Ma è il grande, come dire, rumor, che, rumor per modo di dire, insomma, la grande considerazione politica che viene fatta in questo periodo. Non c'è dubbio che le Olimpiadi stanno andando bene e che il dividendo politico delle Olimpiadi ricadrà su Boris Johnson, su questo non c'è dubbio. Poi che questo possa bastare a far superare, come dire, la perplessità che Johnson si porta dietro per il suo modo, come dire, eterodosso, diciamo, di porsi agli elettori e di vivere la politica, questo è tutto da dimostrare, perché poi il Partito Conservatore ha delle sue liturgie, dei suoi riti che non consentono tanto troppe eccentricità. Però non c'è dubbio che Boris Johnson ha guadagnato moltissimi punti agli occhi di un'opinione pubblica, soprattutto londinese, che comunque ha dimostrato anche con l'ultima elezione di apprezzarlo e di amarlo. È stato bravo a gestire questa Olimpiade. E mi pare che sia Johnson sia Cameron amano comunque l'Italia. Sì, Johnson è un latinista, è classicista, che apprezza moltissimo l'Italia, anche questo con l'Italia non c'entra, ma ha scritto anche un ode simili a quelle di, come dire, in linea con quelle di Pindaro per le Olimpiadi, rispolverando il suo greco. Ma sia lui che Cameron, ma tutti i primi ministri inglesi, non dimentichiamoci Blair, forse Brown è stata l'unica eccezione, venivano, come dire, a passare le vacanze, vengono ancora a passare le vacanze in Italia, che peraltro è meta di tutti i primi ministri, diciamo di gran parte dei primi ministri europei. Certo. L'altro ieri chiacchieravo con Peter Mandelson, l'ex commissario europeo, che mi ha detto: la devo lasciare perché parto per l'Italia. Grazie, Maisano. Anche Angela Merkel in questi giorni è in Alto Adige, una parte italiana in cui si parla tedesco, in cui si sente a casa propria, ma è sempre Italia. Grazie a Leonardo Maisano, ti lasciamo andare, so che devi attraversare Londra, ci vorrà il suo tempo per i tuoi impegni giornalistici. Restiamo con gli altri ospiti e continuiamo questo discorso, direi, anche di vicinanza culturale. Tra l'altro ci sono molti messaggi in cui si mettono a confronto Gran Bretagna e Italia, alcuni dice sono imparagonabili, non fate disinformazione, sono due realtà completamente diverse. In Gran Bretagna si respira libertà e rispetto, in Italia domina l'arroganza del potere. Altri dicono che la Gran Bretagna non è il paradiso che state descrivendo, hanno dovuto salvare le banche, hanno gli scandali finanziari anche loro, hanno manipolato i tassi di interesse, hanno un debito pubblico certamente più elevato se si tiene conto anche del debito privato. Ecco, quindi ci sono tanti aspetti, ma in paradiso su questa terra ovviamente non esiste, ci sono tanti problemi, tante difficoltà, però resterei sul dato, diciamo così, culturale, vedendo un po' questa vicinanza tra almeno di ispirazione, ma è questo interesse reciproco tra Italia e Gran Bretagna. Roberto Bertinetti, Londra è ancora un centro culturale particolarmente importante, un centro culturale a cui l'Italia deve comunque guardare? Secondo me sì, sia dal punto di vista, una delle cose alle quali facevamo accenno prima e che possiamo approfondire è quella delle trasformazioni urbanistiche. Ovviamente l'Italia è un paese particolare da questo punto di vista, per fortuna abbiamo un grande patrimonio culturale molto antico, anche abbastanza mal conservato, come sappiamo, il caso di Pompei, dove c'è un cartello in cui si dice di fare attenzione ai cani randagi, di non maltrattarli, è significativo. Londra però, nel corso di Londra, che come tutti sappiamo ha pochissime antichità pre-seicentesche, perché venne distrutta da un furiosissimo incendio nella seconda metà del Seicento, che tra l'altro debellò anche la peste, che venne raccontato da Daniel Defoe. Londra parte dal 700 in avanti. Chiunque guardi lo skyline del centro, e io a chi dovesse andare a Londra consiglierei di farsi una passeggiata sulla parte sud del Tamigi, partendo da Tower Bridge, quello che si vede in tutte le foto con i cinque cerchi olimpici, a salire verso la Tate, a salire ancora magari verso la famosa ruota, simbolo del millennio. Guardando dall'altra parte si vedono le costruzioni nuove della City, i grattacieli, e si vede St. Paul e si vedono tutte queste costruzioni, diciamo a partire dal 700 ipermoderne. Noi, almeno a me sembra, delle volte in Italia facciamo lunarissimi dibattiti su come intervenire sulle città. Gli inglesi molto pragmaticamente, con grande qualità secondo me, almeno per quanto riguarda la capitale, poi ci saranno alcune zone più brutte, adesso non dobbiamo prendere tutto parola colato, sono riusciti a integrare, nonostante quello che pensa il principe Carlo, che sappiamo bene è contrario a questo tipo di operazione, anzi lui vorrebbe riportare Londra al modello di costruzione vittoriana, che mi sembra un po' complesso. Il recupero, ad esempio, pensiamo soltanto a quanto ha significato in termini di immagine, di cosa della Tate Modern, no? Che era un'antica centrale elettrica dismessa e che è stata trasformata in uno dei musei e dei contenitori d'arte contemporanea più visitato al mondo. Stessa cosa lo ha raccontato, non mi ricordo se Maisano o qualcun altro, alcune settimane fa sul Domenicale del Sole, è accaduto per un altro museo di Londra che si chiama Victoria and Albert. Il Victoria and Albert Museum è il museo dove si radunano, sono radunate dall'Ottocento sino ad oggi, tutto quello che riguardava oggi chiameremo design, comunque vestiti, abiti, modelli, costruzione, eccetera. Grazie ad un'operazione di immagine, se vogliamo, cioè di rilancio, sono arrivati a quasi 4 milioni di visitatori ogni anno, è diventata una fucina di talenti, fanno corsi di design. Gli inglesi sanno usare benissimo il loro patrimonio culturale. E hanno un'apertura anche molto, molto forte verso l'esterno, cioè chiunque può andare, iscriversi, frequentare, partecipare. Esatto, e la differenza io lo so perché ho molti miei o ex studenti o amici che comunque sono trasferiti in Gran Bretagna nei settori più diversi, ma a me ha colpito molto, forse ricorderete che quando il Presidente della Repubblica andò in visita all'Università di Oxford alcuni mesi fa, dopo il suo saluto prese la parola un ragazzo italiano che faceva il dottorato in quel momento, dottorato pagato a Oxford, il quale raccontò che nel suo discorso, chiedendo al Presidente della Repubblica di poter intervenire per sanare una situazione a suo e a mio giudizio intollerabile, è che lui si era rivolto, aveva fatto domande per un sacco di posti di dottorato in Italia, non era stato preso in considerazione per le ragioni che ben sappiamo. Poi aveva fatto domanda a Oxford e gli avevano detto vieni, prova, fai l'esame, fai vedere cosa sai fare, e lo avevano preso. I paradisi non esistono, il migliore dei mondi possibili non esistono, diciamo che la maggior parte delle regole britanniche sono leggermente superiori alle nostre. Beh, direi superiori, sono diverse, sono più liberali, sono più aperte, tengono conto di più di una realtà appunto composita, possiamo chiamarla multietnica, possiamo chiamarla in tanti modi diversi, poi dopo anche qui i pregiudizi, ci sono alcuni ascoltatori che con i loro sms hanno criticato un po' questo aspetto multietnico, ma non si tratta solo di aspetti, diciamo così, razziali, multietnicità vuol dire anche il fatto di essere aperti a persone per esempio europee, per esempio americane, per esempio appunto non solo di tra virgolette di razze diverse, ma avere appunto una capacità di capire che tutti possono portare qualcosa e poi dopo ognuno può variare il proprio e tenere quello che è buono. Ecco, abbiamo Mattia Ponzoni, buongiorno. Buongiorno. Mattia Ponzoni è italiano, vive a Londra, fa un master di arte contemporanea e si è trasferito a Londra. Direi, gli chiediamo una indiretta, perché ha deciso di passare dall'occuparsi di arte in Italia? Mi pare che si occupasse comunque di arte anche in Italia, a occuparsi di arte in Gran Bretagna. Mattia Ponzoni. Sì, io lavoravo nel mondo dell'arte in Italia, sono venuto in Inghilterra per fare un master, adesso sono diventato coordinatore di un master in mercati dell'arte contemporanea e abbiamo aperto una piccola società creativa con altri ragazzi, un network delle arti collaborative, cioè il network creativo delle arti collaborative. E io sono venuto in Inghilterra perché l'Inghilterra dà molta più possibilità a noi giovani di poterci esprimere. Certo, le condizioni economiche attuali anche qui in Inghilterra non sono delle migliori, come diceva prima, il migliore dei mondi possibili non esiste. Anche qui si fa fatica, il lavoro è poco e comunque anche la realtà degli internship, come diciamo qua, gli stage, non sono pagati come in Italia e tutte le polemiche che ne conseguono. Detto questo, però, viene riconosciuta molto di più la qualità delle persone, viene apprezzata, e se una persona è capace di fare il suo lavoro viene riconosciuta abbastanza rapidamente e anche in maniera economica. Ecco, il merito, il riconoscimento del merito, della capacità, della professionalità è sicuramente uno dei problemi che l'Italia ha in tutti i suoi aspetti, sia della parte pubblica sia della parte privata. Restate comunque con noi, concluderemo tra pochi minuti questa panoramica di Londra, ma adesso le notizie sul traffico. 9 in punto. Eccoci qua per l'ultima parte di 9 in punto di oggi. Rispondo a alcuni sms, vi confermo, Giannino, Oscar Giannino è in vacanza, gli auguriamo buone vacanze, ritornerà in forza il 20 agosto per ritornare appunto sui temi che gli sono cari e che sono appunto cari anche perché sono temi che riguardano da vicino poi tutti noi, la nostra politica, la nostra finanza, i nostri soldi, la nostra capacità di partecipare a questa società che ha tanti problemi e che mettere in luce questi problemi e comunque fare un passo avanti per risolverli, anche se non tutti siamo d'accordo sul come metterli, sul come affrontarli, sul come risolverli. Allora qualche idea, qualche ispirazione può venire anche guardando all'estero, guardando appunto a città che hanno tanti problemi e alcuni messaggi sms li mettono in luce. Londra sicuramente, anche perché è una grande città, lo ricordo, più di 10 milioni di abitanti, ha sicuramente tanti problemi, dal traffico all'inquinamento alla capacità appunto di rispondere alle esigenze dei cittadini, ma comunque è una città che vive, che respira, che si muove, che cresce, che fa delle scelte, che con le Olimpiadi ha sicuramente raccolto una sfida che non è certamente una sfida decisiva, ma che può comunque costituire un piccolo passo. Mattia Bernardo Bagnoli, lo ricordo, autore del libro Strano ma Londra, come trasferirsi e vivere all'estero, compratelo, fatelo comprare. Se avete qualche idea per voi o per i vostri figli di guardare appunto alla Gran Bretagna come una possibilità per fare delle esperienze all'estero, allora in conclusione, Bagnoli, cosa possiamo dire per vivere a Londra? Quali sono le preoccupazioni fondamentali e quali sono le differenze più profonde verso l'Italia? Molto spesso si dice che l'Italia, per esempio, ha dei grandi problemi con la pubblica amministrazione, ci vogliono dei giorni per avere un documento, ha magari dei problemi inferiori con le banche. Nel tuo libro, per esempio, spieghi che aprire un conto in banca in Gran Bretagna non è poi così facile. Bagnoli. No, infatti, Londra, vivere a Londra o trasferirsi a Londra è un processo non facile, molto, a volte anche un po' laborioso, che comunque ha dei suoi trucchi, chiaramente. Io li ho imparati, diciamo, duramente, sbagliando e sbattendo la faccia. Allora, diciamo che la prima considerazione è che la Gran Bretagna, e quindi Londra, la sua rappresentazione più brillante, non è la Svizzera, cioè non è un paese dove tutto funziona. Questo è un grande mito che in Italia si ha. Certo, funziona meglio che da noi per quanto riguarda la pubblica amministrazione. Ci sono dei servizi più rapidi, ci sono dei servizi anche qualitativamente migliori, non tutti, ad esempio la sanità, per quanto sia pubblica, per quanto la sanità appunto pubblica come la conosciamo noi l'hanno brevettata gli inglesi dopo la Seconda Guerra Mondiale, ma non funziona particolarmente bene, per cui diciamo ci sono dei miti da sfatare. Allora il consiglio che io do sempre è quello di affrontare questa avventura con mente aperta, scevra il più possibile da pregiudizi, e cercare di prendere la Gran Bretagna e gli inglesi in particolar modo per quello che sono, e cercando di non farci condurre sull'oro della follia. Questo paese è un paese che si considera tutt'oggi un raro percorso di civiltà. Il modello di vita inglese, quello che io chiamo del British Way of Life, secondo loro rimane comunque il metodo con cui affrontare la vita e l'esistenza. Qualunque altro sistema elaborato in giro per la Terra, diciamo il nostro pianeta, nel corso degli ultimi secoli, si può sicuramente studiare, condividere, però non arriverà mai alla perfezione, diciamo, timbrata da Sua Maestà. Ecco, però gli inglesi rimangono orgogliosi e hanno un loro sistema di regole che è assolutamente peculiare. Bisogna capire che non ci sono scorciatoie in questo. Bisogna semplicemente seguire le regole e cercare di non rimanerne, diciamo, incastrati attraverso i suoi meccanismi. Ecco, ci sono ancora a Londra dei ristoranti, dei circoli esclusivi in cui bisogna avere il title, lo smoking per entrare, ci sono ancora delle procedure particolari per partecipare a degli eventi pubblici, c'è ancora tutto un rito che circonda per esempio la monarchia. Ecco, questi elementi sono elementi, diciamo, delle eccezioni in una realtà che invece è più confusa, è più libera, oppure sono elementi ancora che contraddistinguono la realtà inglese, cioè questo attaccamento in fondo alle tradizioni, ai riti e in fondo anche alla capacità di mantenere dei valori che si esprimono anche attraverso il modo di vestire, il modo di comportarsi, il modo di partecipare. Bagnoli. Assolutamente, anzi io credo che questo sia uno degli elementi vincenti della cultura britannica, cioè un modo straordinario che io ho visto non ho visto da nessun'altra parte del mondo, di saper coniugare così bene tradizione e innovazione. Cioè Londra è una città porto che ha ospitato tutti, ha accolto tutti e continua a accogliere tutti in modo straordinario. A New York si va per essere americani, a Londra si va per essere se stessi. Questo è più o meno una grande differenza. Mi sembra una sintesi molto efficace. Mi chiedono attraverso un SMS di ripetere l'autore e il titolo, che abbiamo appena sentito, Mattia Bernardo Bagnoli. Il libro si chiama Strano ma Londra, come trasferirsi e vivere all'estero. L'editore è Fazzi, sono 200 pagine, costa 14 euro, un investimento direi importante per chi vuole fare questa scelta. Ecco, Mattia Pozzoni, lo ricordo, vive a Londra, fa un master in arte contemporanea. Direi in conclusione un consiglio anche da lei su che cosa sul pericolo che un italiano che decide di vivere a Londra deve evitare, contro cui deve stare in guardia. Mattia Pozzoni. Ma pericoli io non ne vedo. Io consiglio di venire qui a Londra con mente aperta e di lasciarsi affascinare dalla città, perché l'offerta è così grande in termini culturali, in termini antropologici, in termini sociali, che non bisogna farsela scappare. Quindi consiglio di venire qua con la mente più aperta possibile e di cercare di vivere il meglio possibile. Ecco, chi non ci sono. Mattia Pozzoni, se una persona avesse 2 giorni di tempo da passare a Londra, che cosa gli consiglierebbe di vedere? Tate Modern, hanno appena aperto le tanks, che sono le vecchie cisterne d'olio, perché la Tate prima era una vecchia centrale, è molto molto bella, lo consiglio. Poi c'è la mostra di Damien Hirst, che è un artista molto famoso in Inghilterra, che vale la pena vedere. Adesso è il periodo olimpico, io consiglierei di andare in giro a vedere se si riesce a trovare un biglietto, qualcosa c'è ancora, se chi ha voglia si può trovare. E poi qualche grande classico, National Gallery, British Museum, assolutamente. E poi come dicevamo prima, passeggiare per Londra, perché la bellezza di Londra è proprio la diversità di un quartiere dopo l'altro. Passeggiare sul Tamigi dà un colpo d'occhio eccezionale, e magari cenare su qualche terrazza, di modo da avere una bella vista, una cosa diversa che magari ogni tanto non si fa. Certo, qui a Londra non c'è il clima che abbiamo in Italia, però si può, se è una giornata un attimo un po' più assolata, si può anche godere del panorama, dello skyline della città, che è sempre in costante evoluzione e regala sempre emozioni. Grazie Mattia Pozzoni. Questi consigli, mi sembra che il consiglio di passeggiare sia un consiglio che vada bene per ogni città del mondo, soprattutto quella di prendersela un po' con calma e capire come stanno gli abitanti, come vivono, come si muovono, magari fare anche due chiacchiere e poi prendere, comunque per tornare si potrebbe prendere un taxi e tornare al proprio albergo. Roberto Bertinetti, per concludere questa nostra passeggiata a Londra, allora i consigli di Mattia Pozzoni mi servono consigli di buon senso, un consiglio in più anche per chi vuole andare a Londra una volta che sono finite le Olimpiadi? Io consiglierei assolutamente la scheggia di Renzo Piano, che è stata appena inaugurata, Shadow of Glass. Il quartiere è St. Giles, è un quartiere molto centrale, South Bank, la riva sud del Tamigi, è la torre 306 metri più alta d'Europa, è stato inaugurato il 5 di luglio e è stato definito una città verticale, anche Renzo Piano l'ha chiamata così. Molto in alto c'è una cosa che si chiama, con un eco letterario, camera con vista, cioè dal romanzo di Drummond and Forster naturalmente, ed è un posto dove si gode un panorama unico di Londra. Io francamente non ho mai amato la famosa ruota che è stata inaugurata per le Olimpiadi, per il passaggio del millennio, e dove si vede lo stesso un ottimo panorama di Londra. Credo che andare a vedere la torre di Renzo Piano e salire e ammirare da Londra lo skyline di gran parte di Londra da quella posizione valga la pena. Vorrei concludere, da professore di letteratura, con un consiglio per qualcuno che non può andare a Londra, che magari ha voglia di leggere due libri per capire che cosa può essere la Londra contemporanea. Sono due gli autori che io mi sento di consigliare soprattutto. Uno si chiama Jonathan Coe, è stato ampiamente tradotto in italiano dalla Feltrinelli, quasi tutti i suoi libri vanno bene, l'ultimo si chiama I terribili segreti di Maxwell Sim, titolo e traduzione non eccezionale, perché in realtà non sono segreti, sembra un giallo, ma lui in inglese l'aveva chiamato The Terrible Privacy, quasi la terribile solitudine di questo personaggio. Ed è un altro libro, quello che ha vinto il Man Booker Prize pochi mesi fa, cioè il premio letterario più importante d'Inghilterra, Julian Barnes, Il senso di una fine, pubblicato da Einaudi. Ecco, se qualcuno vuole cominciare a capire come funziona l'Inghilterra contemporanea, non avendo la possibilità di andare a Londra, può cominciare a leggersi questi libri qua. Tra l'altro sulla copertina dell'edizione italiana del libro di Julian Barnes c'è proprio la Tate Modern, il ponte che unisce le due sponde del fiume, e si vede sullo sfondo la cattedrale di St. Paul, alla quale facevamo cenno prima. Quindi magari, oltre al libro di Bagnoli, che io consiglio perché ho molto apprezzato, anche qualche romanzo, qualche narratore può dare delle indicazioni preziose per capire cosa sta succedendo. Grazie Roberto Bertinetti, libri da leggere, magari anche andando a Londra. Molti ascoltatori ci chiedono anche dei consigli pratici, quanto costano i taxi, quanto costano i ristoranti costano un po' più d'Italia, i taxi costano qualche volta anche un po' meno, quindi prendeteli pure tranquillamente. Ringraziamo Roberto Bertinetti, Leonardo Maisano, Mattia Bernardo Bagnoli e Mattia Pozzoni di essere stati con noi. L'appuntamento è per domani, parleremo di politica. Radio 24. La passione si sente.